Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia con voi Sebastiano Barisoni. I temi di questa giornata economico-finanziaria, per quello che riguarda la crisi, come la si chiama ormai in gergo, della diossina, dei maiali alla diossina o dei maiali contaminati dalla diossina per colpa dei mangimi irlandesi, 1 su 10, in realtà questa è la proporzione per quello che riguarda l'Irlanda. Il 10% della carne suina irlandese si sta allargando senza creare allarmismi anche alla carne bovina, però anche su questo i numeri sono relativamente bassi quanto a importazione. Per quello che ha a che fare invece con i mercati finanziari, il tono delle borse è positivo, non come ieri: più 2,1% Francoforte, più 2,2 Parigi, più 1,5 Milano, più 1,8 l'S&P MIB in questo momento, quindi positive anche se non ai livelli di ieri. Questa mattina invece Hong Kong aveva chiuso con un calo del 2% e il Giappone un rialzo dello 0,80%. L'America non sta aiutando, nel senso che ha in questo momento un calo, il Dow Jones dello 0,8%, e ancora per quello che riguarda il Nasdaq invece c'è un rialzo dell'1,4%. L'euro su dollaro è a quota 1,29,02. I titoli, se facciamo eccezione con Impregilo, -3,90, Snam -1,6, A2A -1%, Tenaris -0,90, Unipol -0,7 come Mediolanum. Tutto il resto è o invariato o positivo. Nel caso specifico Fastweb +6,3, Saipem +6,1, Alleanza +5,80, Fiat +5,3, Generali +3,9 come Prismian, 3,7 Bulgari, 3,5 Buzzi Unicem e Mondadori, Finmeccanica +3,2, Mediobanca +3%, Talcementi +2,6, Atlantia +2,1, Luxottica +2% come Intesa San Paolo e il Banco Popolare, ma anche in questo momento Pirelli guadagna il 2%, Mediaset +1,80, Eni +1,6, Autogrill +1,4%. Diossina quindi, o meglio lo sviluppo, i rischi per un settore e i rischi soprattutto di quello che vorremmo evitare, ossia l'effetto domino, l'effetto panico che già tanti danni soprattutto per l'aviaria creò in maniera assolutamente inutile. Facemmo decine di puntate per spiegare che era impossibile praticamente che i polli italiani avessero l'aviaria, eppure il danno fu di mezzo miliardo di euro in pochissime settimane. Diverso il caso della mucca pazza, nel solo 2001 causò 2 miliardi di danni al settore, ma lì c'erano degli elementi un po' più, se mi permettete, preoccupanti. Parleremo anche della tracciabilità, perché dire che non bisogna fare allarmismi significa anche spiegare le cose come stanno. Poi la questione climatica, ancora da Bruxelles arriva la notizia di un accordo sulle energie rinnovabili fra il Consiglio, la Commissione e il Parlamento europeo, con un accordo che tiene conto della richiesta italiana di una clausola di revisione nel 2014. E poi anche oltre al settore, diciamo, agricolo con la diossina e al settore climatico per quello che riguarda l'accordo che dovrebbero aver raggiunto i leader europei, parleremo anche della FAO, ossia del rapporto oggi presentato sullo stato di insicurezza alimentare nel mondo. Insicurezza alimentare significa soprattutto anche il numero di affamati e un bilancio che, lo anticipo subito, rischia di aggravarsi. Secondo la FAO infatti è salito di 40 milioni di persone il numero di affamati nel mondo, e tra l'altro rischia di aggravarsi con la crisi economico-finanziaria. 349-238-6666 per i vostri sms. Sul fronte industriale poche notizie, sul fronte finanziario anche, una volta tanto respiriamo, qualche preoccupazione per una recessione che ci si attende essere molto dura in Germania, è arrivata oggi appunto da Berlino. Rapidamente le notizie in breve. E quindi sul pacchetto clima, oggi il Presidente della Commissione Europea Barroso ha detto che gli obiettivi del pacchetto clima non sono negoziabili, che non si arriverà ad annacquamenti e che con il nuovo Presidente americano Barack Obama le posizioni americane saranno più vicine a quelle europee. Ricordo l'oggetto di contendere, secondo il governo italiano e soprattutto anche secondo la Confindustria, il pacchetto clima avrebbe un costo per l'Italia altissimo, cioè tra i 15 e i 20 miliardi di euro l'anno, portare al 20% le fonti rinnovabili entro il 2020, ridurre i consumi di energia del 20% e ridurre del 20% le emissioni di gas a effetto serra, mentre secondo la Commissione Europea il costo sarebbe di gran lunga inferiore alla metà, circa 8 miliardi di euro l'anno. I mercati finanziari, continua a scendere l'Euribor e questa è una buona notizia, lo ripetiamo ogni volta, se si trasferirà questo calo anche sui tassi praticati dalle banche. È sceso oggi al 3,43% il tasso interbancario a tre mesi, quello denominato in euro, quello che serve per capire come, per calcolare quanto costa prestarsi denaro e quanto spread poi applicare sopra, è ai minimi dal 2 ottobre del 2006. Ancora sull'economia internazionale, il Canada ha tagliato oggi i tassi di riferimento portandoli al livello più basso dal 1958 all'1,5%, sorpresi tutti gli analisti che si attendevano un taglio sì ma non così forte, non dello 0,75%. Dopo il dato di ieri sulla produzione industriale tedesca, dalla Germania arriva un'indicazione di una profonda recessione in atto che dovrebbe toccare il punto più basso a metà dell'anno prossimo. Le valutazioni le ha fatte l'istituto ZEV, che è un po' quello di riferimento in Germania per l'andamento congiunturale dell'economia. La fiducia degli investitori istituzionali in Germania continua a scendere. Così come sono scese al minimo da 30 anni le vendite di case in Gran Bretagna. È il livello più basso mai registrato da quando esiste questo indice, questa rilevazione. Sempre dalla Gran Bretagna, però diciamo, questa crisi sta portando bene a Gordon Brown, perché era un premier in estrema difficoltà prima che la crisi entrasse nella sua parte più forte, più dolorosa. E invece il modo in cui ha gestito e condotto la crisi, l'intervento, il salvataggio, il piano, la cintura di sicurezza predisposta, ha fatto risalire Brown in tutti i sondaggi. Infatti è uno dei pochi che si avvantaggia di questa crisi, possiamo dirlo. Tra l'altro, tanto è risalito Brown nei sondaggi che il leader dei conservatori David Cameron, convinto fino a qualche settimana fa di avere in tasca le chiavi di Downing Street, anche perché i sondaggi erano veramente inesorabili per Gordon Brown, ha chiesto adesso il voto anticipato. Tra l'altro un sondaggio pubblicato oggi dal Times vede il 40% degli inglesi dire che Brown e Darling, Alistair Darling è il cancelliere dello scacchiere, sono i più affidabili quando si tratta di governare l'economia in tempi difficili, e solo il 31% preferisce il leader conservatore Cameron. Oggi sono arrivati dei dati, tutti con segno meno, anche dalle economie emergenti dell'est Europa, quelle che fino a poco tempo fa venivano individuate come il vero Eldorado europeo, avevano tassi di crescita particolarmente elevati. L'Ungheria fa meno 0,1, l'Estonia fa meno 3,5%, la Lettonia fa meno 4,6% come PIL, è il peggiore dato in Europa. E poi la recessione economica in Giappone, ben più profonda delle previsioni. Nel terzo trimestre il PIL nipponico ha fatto un meno 1,8% rispetto all'anno prima, contro un meno 0,4% atteso. Il bollettino doloroso dei licenziamenti, 16.000 tagli complessivamente alla Sony, il doppio di quanto annunciato in precedenza. E ancora, per quello che riguarda le compagnie aeree, secondo la IATA le compagnie aeree perderanno circa 5 miliardi di dollari nel 2008 e altri 2 miliardi e mezzo nel 2009. Va bene, in tutto questo ci mancava solo il problema della carne scusatemi, alla diossina, dico carne perché dai suini, dal maiale si sta spostando anche ai bovini. Le autorità irlandesi hanno infatti trovato diossina anche in alcune mandrie di bovini che hanno mangiato il mangime contaminato, che ha già portato al ritiro del commercio della carne di maiale. Anche se il ministro irlandese all'agricoltura Brendan Smith ha detto attenzione, su 11 allevamenti di bovini testati solo in 3 i capi sono risultati contaminati, non c'è pericolo, insomma 3 su 11 non sono pochissimi, il livello comunque di diossina è 2-3 volte superiore al livello legale, contro quello di 200 volte superiore trovato nei maiali. Ecco perché non vi sarà il ritiro della carne bovina dai supermercati. E lo ha confermato circa un'ora fa anche la Commissione Europea, contaminati anche i bovini. Il fronte italiano, sono 89 le partite di carne di maiale di origine irlandese entrate nel nostro paese, lo ha annunciato il sottosegretario della Salute Francesca Martini, sono entrate il 1 settembre del 2008, le regioni hanno comunicato 35 sequestri, 23 in Lombardia, 1 in Calabria, 1 in Puglia, 1 nella provincia di Trento, 1 nel Lazio e 8 in Emilia-Romagna. E ha invitato il ministro Sacconi, il ministro del welfare, ma welfare e anche salute, ecco perché parla Sacconi. Ha invitato a non creare ingiusto allarme proprio sul tema del maiale e la diossina. La situazione, come avete visto, è assolutamente sotto controllo, è stato tempestivo l'intervento dei nostri NAS, da noi stessi sollecitato, la sottosegretario Martini sta seguendo le cose, non si deve creare un ingiusto allarme, è stato possibile identificare immediatamente i prodotti che possono in qualche modo essere sospetti, quindi assoluta tranquillità. Per fortuna noi abbiamo oltre a tutto una rete di veterinari come nessun altro paese europeo ha. E ben venga anche la rete di veterinari. Io ricordo che la causa della contaminazione sarebbe un olio industriale contenente diossina finito nel mangime dato ai suini in 10 allevamenti che producono però circa il 10% della carne suina irlandese. Ma insomma, qui torna in maniera più potente anche il tema della tracciabilità che fece il suo ingresso dopo lo scandalo della mucca pazza. Tutti gli scambi devono essere documentati, gli scambi che avvengono tra le imprese, c'è solo per la carne bovina e non per quella suina. E da qui partiamo per ragionarne con il presidente della Confagricoltura, Federico Vecchioni, buonasera. Buonasera a voi. Possiamo dire che se ci fosse la tracciabilità anche sulla carne suina, forse certi allarmismi non verrebbero nemmeno generati? Ma io credo che l'allarmismo sia sempre in agguato e potrebbe essere generato comunque, perché le notizie sono tali per cui arrivano con grande facilità, per fortuna, al consumatore, per cui a questo siamo sempre esposti. Certo è che la tracciabilità che oggi garantisce dal 2002 tutta la filiera bovina è un elemento di assoluta garanzia, perché ci dà la nascita dell'animale, dove l'animale è cresciuto, dove è stato allevato, e quindi siamo in grado di conoscerne tutto il percorso fino al consumatore finale. Quindi in questa direzione certamente la tracciabilità è un elemento in più nelle mani di un consumatore attento e preparato. Ecco, tra l'altro io ricordo che tutta la carne irlandese è riconoscibile sugli scaffali dei supermercati grazie all'obbligo di provenienza. C'è scritto spesso chi va a comprare la carne, Irlanda piuttosto che Germania, certo, o Italia, per cui insomma attenzione, non iniziamo a danneggiare anche i produttori italiani o di altri paesi se c'è un timore, devo dire non così ingiustificato, perché uno su 10 è tanto per quanto mi riguarda in Irlanda, ma insomma casomai evitate, se proprio avete dei dubbi, la carne irlandese. Vecchioni, chi di diossina ferisce, nel senso che noi abbiamo avuto dei danni per una storia che poi si è rivelata una bufala, certo, sulla mozzarella, danni fortissimi con paesi che poi ci hanno marciato sopra, penso all'Asia, e lì i paesi europei erano freddini con noi, no? Dicevano, beh, sono problemi vostri. Sì, noi siamo sempre stati appunto paradossalmente colpiti da coloro i quali, pensiamo anche alla BSE, si sono il più delle volte chiamati fuori dai rischi sanitari e addirittura additando altri paesi come paesi più a rischio. Tutte queste vicende confermano che la rete dei controlli italiani è una rete assolutamente efficiente. Prima veniva ricordato dal ministro Sacconi il dato che l'Italia è l'unico paese in Europa a pretendere l'obbligo per gli importatori di segnalare agli uffici territoriali dei servizi veterinari i prodotti in entrata. Abbiamo sulla produzione nazionale, in particolar modo per quella bovina, come abbiamo detto, un sistema di tracciabilità assolutamente sicuro. L'elemento che ne scaturisce è che probabilmente sotto il profilo della produzione l'Italia dovrà, in particolar modo per le carni, mi riferisco sia alle suine che alle bovine, mettere in atto un piano di grande rilancio della propria produzione nazionale, perché questa dipendenza per le bovine di oltre il 90% dall'estero certamente ci ha negli anni indebolito. Eh sì, perché noi sulle bovine soprattutto il 90% della carne che mangiamo arriva da fuori, no? Arriva da fuori, abbiamo una dimensione assolutamente significativa sulle carni fresche e insomma che tocca punte di oltre 30 milioni di chili solo per il comparto irlandese. Poi chiaramente se pensiamo alla Francia si va a 66, alla Germania oltre 75 milioni importati, e a questi si aggiungono le carni congelate. Tutto questo per una filiera che evidentemente potrebbe, come ha sempre avuto negli anni, avere attraverso una profonda riorganizzazione una compatibilità anche con la realtà italiana sotto il profilo della produzione. A questo si aggiunge il circuito delle DOP e delle IGP, che da noi è molto solido e affermato, che rappresenta però un elemento di competitività, in particolar modo per le carni suine. Quindi se dobbiamo dare un consiglio ai consumatori, più si consuma italiano meglio è per l'uscita dalla recessione e meglio è per la garanzia di sicurezza che la nostra produzione dà. Sì, sempre che poi i prezzi siano contenuti, ma sono d'accordo con lei. Tra l'altro, visto che io citavo la mozzarella di bufala e i danni che ha causato la polemica sulla diossina, ma ricordiamo anche una polemica che quanto masochismo penso che batta ogni record, cioè Velen Italy durante il Vin Italy, per poi scoprire che si mettevano in mezzo pere con mele, cioè produttori sì che andavano condannati perché avevano falsificato il tipo di vino presente, con produttori che semplicemente non avevano rispettato il disciplinare in maniera correttissima, anche quelle sanzioni, per carità, ma non è che il vino sia cattivo se metti un 10% in più di un altro vitigno rispetto a quanto prevede il disciplinare, casomai una sanzione amministrativa. E lì si è fatta una gran confusione a vantaggio di francesi, australiani e cileni, con la mozzarella pure. Allora io dico, visto che noi abbiamo già pagato sul fronte dello scandalismo senza grandi elementi, qui gli elementi, qualche elemento c'è: il 10% di carne suina irlandese contaminata, ripeto, non è poco. Non potrebbe essere anche l'occasione per prendere la palla al balzo, lo dico in maniera un po' cinica, ma insomma alla guerra come alla guerra, e dire adesso iniziamo e partiamo con un grande piano di rilancio di tutto il settore zootecnico italiano? Prima della sua risposta vorrei sentire quella del ministro Luca Zaia, ministro dell'agricoltura, che ci ha appena raggiunto al microfono. Buonasera ministro. Buonasera dottor Barisoni. Non so se ha sentito la mia domanda, si diceva col presidente Vecchioni, vabbè, visto che abbiamo pagato noi già per la presidente. Visto che abbiamo già pagato per la mozzarella in maniera impropria e per il vino in maniera impropria, potremmo approfittarne per rilanciare il settore zootecnico, quindi bovini, suini italiani, in modo da aumentare la quota di italiano che viene mangiato? Guardi, io oggi ho rilasciato una dichiarazione alla quale ho detto no allo sciopero lo zampone, perché c'è qualche idiota che comunque va anche sostenendo questo, ma soprattutto diciamo che dobbiamo difendere i prodotti della nostra agricoltura, i prodotti di qualità e i prodotti che sono certificati, perché noi facciamo sicurezza alimentare. A un prezzo accessibile, perché alcuni ascoltatori dicono vabbè, però poi la carne uno la compra in base anche al prezzo, cioè la filiera viene allargata e viene allargata anche riducendo i costi? Beh, veda, potremmo ricordare i prezzi della carne di suino che da giugno ad oggi si sono posizionati all'interno di una forchetta che andava dai 0,95 centesimi il chilo a 1,40 euro, significa poco più di un caffè un chilo di carne di suino. Questo vuol dire che comunque forse a volte abbiamo anche informazioni sbagliate rispetto ai costi. Stiamo parlando di carne di qualità, stiamo parlando ad esempio di grande suino padano che questa è una carne prodotta con marchio di tutela, quindi con una DOP. Ecco, si diceva prima col presidente Vecchioni, in realtà l'Italia è uno dei paesi che ha i maggiori controlli sulla provenienza della carne, visto che veniamo sempre additati come l'anello debole, poi la mucca pazza, se non ricordo male, era britannica, il suino alla diossina è irlandese. Non potremmo anche a livello europeo chiedere maggior rispetto e identici controlli? Beh, da questa richiesta io l'ho fatta all'Europa, visto e considerato che noi rappresentiamo un paese che di controlli può dare sicuramente, far scuola a livello internazionale. Ci viene riconosciuta questa peculiarità che siamo il paese con il miglior sistema dei controlli, e dobbiamo anche ricordare che sempre da quei soliti paesi poi ci vengono questi scandali che mettono in crisi il comparto dell'agroalimentare. E noi siamo stanchi di essere vittima delle angherie di queste agropiraterie, di queste schifezze che entrano sui nostri mercati. Dobbiamo difendere i nostri mercati fino in fondo e valorizzare le nostre produzioni. Un'ultima domanda, avete intenzione, perché insomma, se la cosa va avanti così, oggi si è allargata anche ai bovini, che sono meno, per carità, hanno detto gli irlandesi, solo 3 allevamenti su 11, per me non sono pochi 3 su 11, però avete intenzione di sensibilizzare anche con una campagna, cioè con un'informazione? Io vedo già un rischio aviaria, se penso a quella follia dell'aviaria che costò 500.000 ai produttori di polli italiani in un mese per nulla, perché tanto era impossibile che le oche asiatiche, diciamo, defecassero sugli allevamenti italiani, essendoci dei capannoni, ma non ci fu un modo di spiegarlo. Avete intenzione di operare anche sul fronte della comunicazione prima che sia troppo tardi? Direi non solo questo, ma soprattutto diffondendo messaggi di tranquillità. La filiera della carne è tracciabile in Italia, quindi noi sappiamo storia del capo allevato e quindi dell'animale, il nome dell'allevatore e il luogo di origine, per cui per usare un paragone, se uno non vuole mangiare gli ananas sa trovare direttamente le mele prodotte in Trentino o da qualche altra parte. Questo per dire che insomma chi non vuole mangiare carne irlandese o di altri paesi può tranquillamente farsi dire dal suo rivenditore, farsi mostrare l'etichetta, perché lì c'è scritto da dove viene quella carne. Anche nei ristoranti immagino questo sia. Assolutamente sì, c'è l'obbligo di tracciabilità fino al consumatore, per cui anche il ristorante ha l'obbligo di presentare il certificato. Grazie, grazie al Ministro Luca Zaia. Grazie a lei. Allora, Presidente Vecchioni, ha sentito il Ministro, forse è il caso anche di battere il ferro finché è caldo e approfittarne. Con sta crisi, diciamo, non si fa sconti a nessuno. Andiamo a incrementare la produzione di suini e bovini italiani? Ma nel salutare il Ministro dico che certamente per quanto riguarda i bovini questo può, dal nostro punto di vista, essere una scelta strategica che la zootecnia italiana può fare, tenuto conto di un comparto che comunque oggi è strutturato per l'ingrasso da una parte, soprattutto negli allevamenti del nord, e per la linea vacca vitello nel centro-sud, e quindi avrebbe comunque necessità e volontà imprenditoriale per potersi orientare in maniera ancor più significativa alla produzione nazionale. Per quanto riguarda i suini, la produzione nazionale è una produzione significativa che peraltro in questi anni ha sofferto di una continua variazione di prezzi, perché il circuito delle denominazioni non è stato in grado di assorbire tutto il prodotto verso una commercializzazione che desse reddito ai produttori. A questo c'è da aggiungere quello che lei ricordava prima più volte, il merito alla qualità dei prodotti certificati. Sono prodotti che hanno comunque un costo e sui quali probabilmente una riflessione, qui parlo da rappresentante del mondo imprenditoriale, va fatta in termini di oneri per le imprese. Il meccanismo di certificazione non può essere un elemento secondario, va ulteriormente valorizzato, però gli oneri di questa certificazione, gli oneri di consorzi di tutela, gli oneri di un sistema della qualità che oggi viene fatto gravare sul produttore, sono oneri che devono essere oggetto di una profonda rivisitazione, altrimenti rischieremo quello che lei ricordava, cioè una standardizzazione della spesa degli italiani verso i prodotti di minor qualità e quindi sotto certi punti di vista probabilmente che espongono di più il consumatore, perché di provenienza estera. Bene, quindi immagino anche la tracciabilità sul suino possa diventare un elemento ulteriore, perché se fosse già tracciabile avremmo probabilmente meno danni anche sui suini italiani. Grazie a Federico Vecchioni, presidente della Confagricoltura. Mangiamo italiano sia sul maiale che sulla mucca. Sulla mucca è facilissimo, sul maiale, insomma, in alcuni casi viene anche, anche se non è obbligatoria, c'è la tracciabilità, c'è comunque la denominazione. Senza grandi allarmismi, ci manca solo la diossina irlandese in questo periodo. minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Molti di voi ci scrivono sul tema ancora della tracciabilità. Siamo d'accordo, mi sembrava che fossero d'accordo tutti gli ospiti, cioè sia il ministro Zaia che il presidente Vecchioni della Confagricoltura. Aumentiamo la tracciabilità, quindi estendiamola anche dai bovini ai suini per evitare allarmismi e comportamenti indiscriminati. Faccio notare quanto ricordava il presidente della Confagricoltura: i costi però delle certificazioni non possono diventare uno svantaggio o totalmente uno svantaggio competitivo per gli agricoltori italiani. Tradotto in termini, non è che poi però l'agricoltore italiano si carica tutti i costi e la carne esce a un prezzo più alto, mentre quindi gli fa concorrenza l'irlandese che non ha dentro la tracciabilità, cioè i costi vediamo anche di gestirli. Detto questo, dal bovino e dal suino alla borsa. Senza battute. Più 1,2% il Mibtel, più 1,6% l'S&P Mib, più 1,5% Parigi, più 1,3% Francoforte, più 1,8% Londra. L'America invece adesso ha preso la strada del ribasso in maniera più decisa, meno 1,6% il Dow Jones, regge ancora un po' il Nasdaq, più 0,3%, euro a quota 1,29,21 in questo momento, petrolio stabile intorno a $43 il barile, aperto con un leggero calo, ma insomma sopra i 40, ma di poco. Andrea Fontana, Radio Cori, Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Dunque Andrea, oggi abbiamo visto, al di là dell'indice complessivo, un insieme di report non male, ma soprattutto Saipem più 7,2% riconquista quota 11 euro, Alleanza più 6,90, Fast più 5,3, poi Mondadori più 5, Fiat più 4,8, Bulgari più 4,6, Generali più 4,1%. Continuo con chi ha guadagnato tanto e mi riferisco a Mediobanca più 3,9 come Finmeccanica e Italcementi, e Buzzi Unicem più 3,5, Prismian più 2,5, Atlantia più 2,3, Terna più 2,2, Intesa San Paolo più 2% come il Banco Popolare. Saipem. Per quanto riguarda Saipem, come tu ricordavi, certamente la posizione espressa da UBS che ha confermato la raccomandazione comprare sul titolo è stato il sostegno al titolo oggi, un UBS che pur vedendo non con troppo ottimismo il 2009 del settore in cui è impegnato Saipem, cioè le infrastrutture per il settore petrolifero, riconosce a Saipem una posizione più favorevole rispetto ai competitor, soprattutto per il sostegno che le viene da Eni e anche per l'ottimo portafoglio ordine riconosciuto all'azienda controllata da Eni. Per quanto riguarda invece uno degli altri migliori titoli dell'S&P MIB, Fastweb, oggi la spinta è arrivata dalla controllante svizzera, cioè da Swisscom, che ha presentato un piano di investimenti nei prossimi 6 anni in infrastrutture di fibra ottica per 5,1 miliardi di euro. È un titolo peraltro Fastweb piuttosto sottile, che si muove facilmente. Oggi la notizia degli investimenti della controllante le ha dato la spinta per questa, sì, questo bel rialzo superiore al 5%. Allora Fiat più 5,6, non è, più 4,8 scusatemi, a 5,6 euro. Non è che il mercato dell'auto abbia visto prospettive nuove rispetto a tutti i timori, in alcuni casi certezze, di cui abbiamo parlato in queste settimane. Come mai il titolo recupera? Beh, certamente diciamo che i discorsi che si stanno facendo in questo periodo finiscono un po' per pesare soprattutto sull'aspetto speculativo di un titolo che ha perso molto come Fiat, ma anche gli altri del settore auto. Nell'attesa che dagli Stati Uniti giungano buone notizie, oggi si è parlato di questa possibilità addirittura di un ingresso del governo degli Stati Uniti nel capitale delle aziende, delle tre grandi aziende del settore automobilistico, Ford, General Motors e Chrysler. Per quanto riguarda invece in Europa si è iniziato a parlare, lo ha fatto proprio l'amministratore delegato di Fiat, di una crisi che porterà invece a un consolidamento del settore. Fiat è alla ricerca di un partner e di una partnership solida, come ha scritto qualche quotidiano oggi, che un po' tutto questo ha portato a ricoprirsi sul settore che è fortemente penalizzato. Fiat dall'inizio dell'anno ha perso quasi il 70%. Ancora, quindi sono più le ipotesi di aggregazione, il ragionamento fatto da Marchion, alla fine resteranno solo 6 produttori al mondo che non un miglioramento delle prospettive del settore. Andiamo avanti, effetto Saviotti o no sul Banco Popolare? Il nuovo AD che ha preso il posto di Innocenzi. Certamente dopo la scorsa settimana dove ricordiamo come la questione Italise, quindi la rottura dei rapporti tra Italise e DZ Bank e quindi della partnership prospettata tra le due aziende, aveva fortemente penalizzato il Banco Popolare, che è il primo azionista di Italise. Dopo le dimissioni di Innocenzi è ritornato un po' il sereno, almeno sul listino, in attesa di capire come si muoveranno i nuovi vertici dell'istituto veronese, quindi un effetto positivo dell'avvento di sì, Saviotti. Verona, che... Novara e Lodi, sennò facciamo arrabbiare esatto. I campanili. Esatto, ma un aspetto positivo del nuovo lavoro, diciamo così, un effetto positivo del nuovo lavoro dell'amministratore delegato Saviotti, che i giornali oggi lo ricordavano, sarà al lavoro soprattutto sulla questione Italise, il caso Scottante, ma anche sul fondo immobiliare da 1 miliardo da creare e anche da concludere l'operazione Agos Ducato nel credito al consumo. Un po' questi tre aspetti saranno il banco di prova del nuovo amministratore delegato. Andiamo avanti con i titoli e con le notizie di carattere anche industriale, diciamo bene Bulgari, Generali e Mediobanc e anche Finmeccanica, più 3,90%. Oggi Finmeccanica è stata sostenuta dalla firma di questa lettera d'intenti tra appunto Alenia Aeronautica e Sukhoi e Kartika Airlines, quindi aziende del settore aeronautico per la produzione di 15 superjet, quindi un ordine che è stato valutato vicino ai 450 milioni di dollari a prezzi di listino. Sarebbe il primo cliente del superjet nel sud-est asiatico. Questo apre prospettive positive per quanto riguarda Finmeccanica, per le aziende che con essa producono questo superjet. Allora, questi titoli più positivi, in pregilo invece il più negativo, meno 3,8%, parlo di quelle maggiori capitalizzazioni, il peggiore in assoluto è IT Holding, meno 7,5%, Arena, meno 6,6%, il migliore in assoluto è la Roma Calcio, nonostante abbia smentito i contatti con la Libia e anche le pressioni da parte di Unicredito, e poi un po' altro, Cell Therapeutics più 21, Eurofly più 14,8. In pregilo. In pregilo ha peggiorato notevolmente il sondamento sul listino all'inizio del pomeriggio, nel giro di pochi minuti. Il titolo che si manteneva sostanzialmente piatto, poco sotto la parità, è arrivato a perdere il 4-5%. Secondo le indiscrezioni che sono circolate tra gli operatori, il movimento è stato legato a una forte ordine in vendita perdita da parte di investitori istituzionali presenti nel capitale di Impregilo quindi si è andati subito a guardare gli investitori istituzionali più fortemente rappresentati nel capitale. In caso di Fidelity, indicato come maggiore indiziato per questo alleggerimento della posizione su Impregilo, c'è anche Mitchell Capital, quindi è probabile che uno di questi due hedge fund abbia alleggerito la posizione. Ricordiamo che Fidelity non è nuovo a questi movimenti recenti, la scorsa settimana era sceso sotto il 2% in TOTS, e quindi molti operatori dicono che proprio questo hedge fund abbia venduto fortemente le proprie posizioni in Impregilo, provocando appunto il ribasso che ricordavamo. Grazie Andrea Fontana, Radio Corriere Sole 24 Ore. Sì, fa un po' specie parlare di fame nel mondo dopo che il nostro problema sembra essere la fettina di maiale DOP tracciabile, ma insomma sono due problemi diversi. Noi per fortuna abbiamo il problema di quale fetta di maiale, di suino o di bovino comprare, lo dico senza nessuna retorica. Ci sono 40 milioni di persone in più che dal 2007 hanno il problema se riuscire a comprare la fettina di carne o di maiale. Infatti il numero di affamati nel mondo, secondo il rapporto FAO distribuito oggi, è passato nel 2007 da 923 a 963 milioni. Vedo che alcuni di voi utilizzano questo dato per affrontarlo alle paghe dei manager. Terrei separate le due cose. Io trovo che sia sbagliato comunque il divario che si è creato tra il manager e il suo dipendente negli ultimi 30 anni, al di là diciamo di come vadano poi gli affamati, i poveri del mondo. Insomma, non sono due cose diverse, così come è allucinante la richiesta del numero uno di Merrill Lynch di ieri, 10 milioni di dollari, perché è riuscito a far vendere una società praticamente fallita e a farla comprare. Voglio dire, avrà uno stipendio anche lui ed era pagato per quello, ma questo è un altro fronte. I dati del rapporto FAO li ha illustrati oggi il direttore generale della FAO Jacques Diouf. Ascoltiamo uno dei passaggi più significativi, li ha illustrati chiaramente a Roma, dove la FAO ha la sua sede. The causes of the global crisis have been discussed at length. Le cause della crisi globale del cibo sono state discusse a lungo, ma le conseguenze sono drammatiche. Solo nel 2007, 75 milioni di persone sono scivolate nella fame cronica, portando il numero totale delle persone malnutrite nel mondo a 923 milioni. Questa tendenza è continuata nel 2008 con l'aggiunta di altri 40 milioni di affamati, in base alle nostre stime preliminari. Questa triste realtà non è accettabile nel XXI secolo, in un momento in cui parliamo di libertà e diritti umani. Molti possono valutare positivamente l'impatto della recente discesa dei prezzi alimentari sui mercati internazionali, ma la crisi non è finita ovunque. Infatti, nonostante questa discesa, l'indice dei prezzi FAO nell'ottobre del 2008 era più alto del livello di 2 anni fa, del 28%. I rifornimenti insufficienti di cibo, la volatilità dei prezzi e l'evoluzione della crisi finanziaria continuano a minacciare la sicurezza alimentare. Inoltre, i prezzi del cibo nei mercati locali sono a livelli elevati come mai prima d'ora. Food prices in local markets are still at unprecedented high level. Il mercato dei poveri, se così lo vogliamo chiamare, ossia il numero dei poveri che sta aumentando drasticamente, è afflitto da due elementi. Da un lato, ricordate la corsa folle dei prezzi delle materie prime agricole fino a metà del 2008, e adesso la crisi economico-finanziaria. La nostra Paolo Nania ha chiesto a Giorgio Barba Navaretti, che è docente di economia internazionale alla Statale di Milano, nonché editorialista del Sole 24 Ore proprio sui temi della fame e della capacità di sfamare i poveri del mondo, quali conseguenze stia avendo la crisi globale sulle popolazioni colpite da questo flagello. La crisi finanziaria in sé ovviamente ha due gravi implicazioni. La prima è che nei paesi avanzati ci sono meno risorse da trasferire ai paesi più poveri, e siccome il reddito di molti di questi paesi dipende molto dagli aiuti che arrivano dai paesi più ricchi, questa mancanza di trasferimenti ovviamente riduce le risorse disponibili per i paesi più poveri e di conseguenza per i più poveri. La seconda è che siccome le economie occidentali, ma anche i paesi emergenti, cresceranno molto di meno, meno, la crescita globale del livello del reddito sarà più basso e questo ovviamente avrà un'incidenza anche per i paesi più poveri, che soprattutto per quelli che riescono ad esportare o che vivono di esportazioni, che chiaramente non riusciranno ad avere tassi di crescita come in passato. 40 milioni in più le persone affamate in appena un anno, dal 2007 al 2008. Il direttore generale della FAO individua nell'aumento dei prezzi delle materie alimentari la causa di questo peggioramento, è così? Ma sicuramente il prezzo delle materie prime alimentari è stato un problema per questi paesi, almeno per quelli che non sono esportatori loro stessi di queste materie prime, perché alcuni paesi sono effettivamente esportatori di materie prime e quindi hanno in parte beneficiato dell'aumento dei prezzi. Noi sappiamo ormai che i prezzi sono calati moltissimo dal picco che è stato registrato diciamo prima dell'estate o intorno all'estate, ma rimangono un po' abbastanza alti e comunque più alti di quelli che erano nel 2006, anche perché in parte l'aumento del prezzo è dovuto a un fenomeno strutturale che è l'aumento della domanda globale di cereali e di materie prime. Ora ci sarà un rallentamento nell'economia, come dicevamo prima, questo rallentamento dell'economia potrebbe anche ridurre effettivamente la domanda globale di materie prime alimentari e quindi determinare un'ulteriore riduzione dei prezzi, questo lo vedremo. Comunque io credo che al di là dell'andamento dei prezzi relativi, il problema fondamentale è veramente la riduzione delle risorse che verranno trasferite a questi paesi. In fondo, se ci pensiamo, è un po' paradossale che in questo momento dobbiamo, sui bilanci pubblici dei paesi industrializzati ricaderà l'onere di in qualche modo sostenere economie avanzate, le economie più ricche e il sistema bancario, il sistema finanziario, le grandi industrie come l'industria automobilistica, e questo purtroppo andrà a scapito delle risorse disponibili per i paesi più poveri e per chi è nella morsa della fame nei paesi più arretrati come in Africa subsahariana. Quindi secondo lei l'aggravamento dipende dal fatto che non ci sono più gli stessi aiuti che un tempo venivano dall'Occidente, semplificando? Beh, questa sicuramente è una componente. Un'altra componente importante di cui dobbiamo ricordarci è che gran parte dell'uscita dalla povertà a cui abbiamo assistito negli ultimi anni, come sappiamo negli ultimi anni il numero di poveri, cioè coloro che vivono al di sotto di un dollaro al giorno nel mondo, si è ridotto, e questo si è ridotto moltissimo anche soprattutto per quello che è successo nei paesi emergenti, in Cina, in India, dove si è registrato il maggior numero di individui che appunto sono usciti da una situazione di povertà. Quindi anche qui il rallentamento della crescita in questi paesi, dove molta gente vive veramente al margine tra la povertà e la sopravvivenza, avrà degli effetti piuttosto negativi, perché il tasso di uscita dalla povertà è destinato a ridursi. È possibile pensare a un ulteriore aggravamento della situazione per l'anno prossimo, per il 2009? Ma io credo che la situazione in sé è già gravissima. Sicuramente, diciamo, gli effetti dovuti all'aumento del prezzo delle materie prime si sono già sentiti nei paesi più poveri. Gli effetti dovuti al rallentamento dell'economia e alla crisi finanziaria si sono sentiti ancora solo in parte, e sicuramente il 2009 sarà un anno difficilissimo. Sappiamo che sarà difficile per i paesi industrializzati, sarà certamente ancora più difficile per i paesi poveri. E con l'intervista della nostra Paola Nania a Giorgio Barba Navaretti si chiude la prima parte di Focus Economia. Certo, la crisi non farà sicuramente bene a chi già stava male, ma insomma vedremo poi che piega prenderà. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Ci spostiamo quindi dai temi nazionali come la carne bovina e suina, al rapporto internazionale della FAO sulla povertà, a temi europei che però chiaramente riguardano anche il nostro paese. Una nota che si fosse appena messo in collegamento: buona la chiusura delle borse, 1,5% in media il rialzo, Parigi più 1,5 come Milano, Francoforte più 1,3, Londra più 2%, euro in rafforzamento a 1,2950 nei confronti del dollaro, petrolio a 42,9 dollari al barile, quindi un ulteriore calo. Infine, una notizia buona per chi ha un mutuo, perlomeno che potrebbe essere buona: l'Euribor a tre mesi è sceso al 3,43%, è il minimo dall'ottobre del 2006. Immaginiamo che poi anche i tassi praticati dalle banche si muoveranno nella stessa direzione, sia per le imprese che per i clienti. Dicevo, temi europei, perché oggi è proseguita a Bruxelles la serie di incontri, le trattative per mettere a punto il pacchetto di misure contro, per ridurre l'inquinamento e le emissioni nocive, da sottoporre poi al summit tra i capi di Stato che si terrà tra giovedì e venerdì prossimi, sempre a Bruxelles. E il pacchetto ha tre obiettivi, lo ricordava anche il nostro servizio nel GR, i tre eventi: entro il 2020 ridurre del 20% le emissioni del gas a effetto serra rispetto al 1990, ridurre del 20% i consumi di energia, portare la quota di consumi di energia prodotta da fonti rinnovabili al 20%. Lo scontro con l'Italia è quello messo in evidenza anche dalla Confindustria, e cioè il rischio di essere un pacchetto costosissimo per le nostre imprese in un periodo in cui oggettivamente il mondo produttivo ha già le sue belle gatte da pelare. Secondo Bruxelles, infatti, il pacchetto avrebbe un costo per l'Italia di circa 8 miliardi di euro l'anno. Secondo il governo italiano, le stime di Confindustria sarebbero invece tra i 15 e i 20 miliardi di euro l'anno. Si è raggiunta un'intesa di massima. Prima però di arrivare al tema del pacchetto europeo, vorrei collegarmi con Enrico Brivio, corrispondente del Sole 24 Ore da Bruxelles. Buonasera Enrico. Buonasera. Vorrei anche capire, non si è parlato solo di clima, abbiamo visto poco fa delle dichiarazioni di Barroso in tema anche di iniziative nel pacchetto anticrisi, definite un po' timide le iniziative europee. Se possiamo partire da questo e poi arrivare alla parte del pacchetto clima. C'è indubbiamente da parte di Barroso la sensazione che gli stati non abbiano ancora fatto tutto quello che devono fare per sollecitare e stimolare l'economia. E in particolare è chiaro il riferimento alla Germania, che è il paese che finora afferma di avere già fatto abbastanza e non pare molto entusiasta di avere un piano a livello europeo che comporterebbe anche ulteriori sforzi di spesa pubblica. Diciamo che da parte tedesca c'è la preoccupazione un po' atavica di pagare anche per gli altri. E questo viene però considerato un atteggiamento miope da Bruxelles, che sottolinea come uno stimolo di cui beneficiano altri paesi alla fin fine apporta benefici anche al paese che ha varato quel piano per via del meccanismo di scambi interni all'Europa. Sì, la posizione tedesca è un po' singolare, nel senso che la Germania, l'abbiamo visto anche oggi, avrà una recessione pesante nel 2009, ha avuto i suoi bei danni dagli investimenti di alcuni grandi gruppi bancari in prodotti tossici americani, e non mi riferisco solo a Deutsche Bank ma anche a altre grandi banche. È molto restia a varare un piano europeo, e poi si è seccata perché ieri Sarkozy e Gordon Brown hanno creato un asse franco-britannico, un asse a parte. Non so, non capisco bene. Poi chiudiamo anche sulla Germania e passiamo ai temi dell'accordo sul piano energetico, ma non capisco bene l'atteggiamento tedesco dove voglia portare. Cioè, loro vogliono utilizzare i soldi, diciamo, a bilancio solo per, cioè, che restino queste iniziative solo in Germania. Hanno paura di che cosa alla fine? Perché insomma, di 200 miliardi complessivi l'Europa per ora ne tirerà fuori sì e no 30, poca cosa. Diciamo che c'è la preoccupazione di vedere impegnato il bilancio pubblico. Sappiamo come i tedeschi storicamente non amino avere larghi deficit, riporti vecchi spettri dell'inflazione, Weimar e via discorrendo, per cui c'è un po' questa, non a caso la Germania è stato il paese che più spinse per il patto di stabilità, e quindi in questa frangente non c'è molta disponibilità a premere il pedale della spesa pubblica, soprattutto con il timore che questo vada alla fin fine a beneficiare gli altri partner, e quindi non nasca da avere esigenze interne. Però direi che è una una preoccupazione obiettivamente esagerata. Sì, anche perché l'America ha lanciato 3 piani in 2 mesi, 750 miliardi prima, 800 dopo, adesso c'è il piano di Barack Obama, l'Europa insomma sembra quasi che il problema la tocchi di meno. Comunque vedremo poi che come, a quale accordo si arriverà. Dunque, Enrico Brivio, si cerca un accordo anche perché giovedì e venerdì ci sarà l'incontro dei capi di Stato proprio sul tema del clima. La differenza tra la posizione italiana e di altri paesi europei l'abbiamo ricordata. Si è raggiunto per ora un accordo sulle rinnovabili, ossia l'Italia chiedeva una clausola di revisione nel 2014. Sentiamo però le dichiarazioni di José Barroso, perché il Presidente della Commissione Europea, dopo aver detto che gli obiettivi del pacchetto non sono negoziabili e che non sarebbe giusto annacquare le ambizioni del suo pacchetto sul clima, ha anche detto che con il nuovo Presidente Barack Obama le posizioni americane saranno più vicine a quelle europee. Tutte le indicazioni che abbiamo dimostrano che il presidente eletto Barack Obama ha intenzione di convergere sul piano che adotteremo. Si tratta di un piano di stimolo economico, occupazione verde, infrastrutture ed efficienza energetica. Le due proposte convergono. Non sono d'accordo con la tesi che la crisi economica significa che non possiamo permetterci sforzi per quanto riguarda il cambiamento climatico. Bisogna fare investimenti intelligenti in energia pulita ed efficienza energetica per conseguire i target del 2020. Le azioni sul fronte climatico fanno parte degli stimoli economici e della soluzione alla crisi economica e finanziaria in atto. Sarebbe un errore per l'Unione Europea, dopo tutti questi anni, abbandonare gli sforzi fatti finora per una soluzione globale, adesso che anche altri paesi come gli Stati Uniti si stanno avvicinando alle nostre posizioni. Non è giusto dare ora il segnale che stiamo annacquando le nostre ambizioni. Allora, chiaro Enrico Brivio, il ragionamento politico del Presidente della Commissione Europea, proprio adesso che gli Stati Uniti avranno una presidenza più vicina alle posizioni nostre in tema di ambiente, noi non possiamo annacquare le misure. Va anche detto, per ricordare le due parti, che l'Italia non dice di no, dice semplicemente attenzione ai tempi, cioè arrivare nel 2020 con questi livelli significa un onere giudicato eccessivo per il mondo produttivo. È vero invece quanto ricordano molti ascoltatori, che comunque da un pacchetto energia di un certo tipo arriveranno anche nuovi posti di lavoro, nuove imprese che si occuperanno di fonti rinnovabili e di quant'altro. Il problema sono, se ho ben capito Enrico, i tempi, il percorso di avvicinamento a questi obiettivi. Sì, i tempi e soprattutto anche a questo punto uno dei nodi rimasti aperti dopo questo primo accordo sulle rinnovabili rimane quello dei settori che saranno sottoposti alle aste a pagamento per i cosiddetti permessi a inquinare, insomma i permessi delle emissioni, nel senso che da parte italiana c'è il forte interesse a escludere alcuni settori come quello della carta, della ceramica, le acciaierie a forni elettrici, che altrimenti si teme potrebbero essere sottoposte al rischio di delocalizzazione e alla concorrenza di paesi terzi. Per cui direi che questo è un punto nodale del negoziato che si svolgerà al prossimo summit, è quello di cercare di preservare per questi settori e anche di garantire per le centrali termoelettriche un avvio graduale di questo sistema a pagamento dei permessi ad emissioni, che altrimenti per il sistema produttivo italiano, che è molto un manifatturiero molto radicato, cioè una struttura industriale molto più sviluppata di altri paesi, si troverebbe fortemente a rischio. Eh sì, perché la differenza poi la fa anche il tipo di sistema produttivo. In Italia, l'Italia è il paese con la Germania dove la manifattura, le fabbriche sono più presenti, è chiaro che per noi è molto più costoso ridurre le emissioni di quanto non lo sia per la Gran Bretagna, dove in realtà la maggior parte delle attività produttive è fatta dal settore dei servizi. Che cosa vuol dire l'accordo sulla clausola di revisione nel 2014 per quello che riguarda le energie rinnovabili? Ecco, questo è un primo punto importante che si è ottenuto dal punto di vista italiano nel negoziato, nel senso che questo accordo sulle energie rinnovabili, no? Uno dei pilastri del pacchetto che punta a quell'obiettivo di arrivare a produrre il 20% delle rinnovabili entro il 2020, ecco, l'Italia ci teneva che ci fosse una clausola di revisione nel 2014, di modo che i paesi che hanno delle difficoltà a raggiungere l'obiettivo o nel caso che la corsa verso questo obiettivo comportasse degli squilibri interni, si dà mandato alla Commissione di effettuare un rapporto e di valutare qual è la situazione. Ecco, da parte italiana c'era un certo timore, visto che il costo aggiuntivo anche in questo caso è considerato alto. Inoltre si voleva che gli obiettivi intermedi non fossero vincolanti e anche questo è stato ottenuto. Per cui, diciamo, un pezzo del pacchetto clima è stato risolto in modo anche diciamo soddisfacente per l'Italia, però rimangono quegli altri nodi molto intricati. Cioè, tu dici andare a vedere appunto se in quel pacchetto clima si riesce a metà percorso a ridefinire quanto manca, quanto è stato fatto, per cui non diventa vincolante nell'obiettivo a metà percorso e c'è la possibilità di rivedere gli obiettivi finali. Come si sta muovendo Sarkozy, presidente di turno? Perché ci tiene moltissimo all'accordo, ha detto però oggi tre questioni chiave ancora aperte. Enrico. Sì, ha detto in effetti che gli obiettivi non sono negoziabili, tre obiettivi fondamentali, cioè il raggiungimento di un'efficienza energetica migliorata del 20% entro il 2020, l'utilizzo di fonti rinnovabili fino al 20% sempre entro il 2020 e anche la riduzione delle emissioni di CO2 di anidride carbonica entro il 2020. Questi tre obiettivi vengono considerati irrinunciabili, però al tempo stesso Barroso ha detto, a fronte di certe richieste motivate, si dovranno fare delle concessioni. Ecco, in questo caso il riferimento potrebbe essere all'Italia, alla Germania e anche ai paesi dell'est che invece dal canto loro vogliono un meccanismo di solidarietà in modo da non essere costretti a pagare troppo in questo sistema. Enrico, un'ultima domanda, se hai una risposta. Tu che idea ti sei fatto del perché le cifre sui costi siano così diverse tra quello che dice il governo italiano e quello che dice l'Europa? Cioè, noi diciamo tra i 15 e i 20 miliardi l'anno di costi in più, Bruxelles dice 8 miliardi. Tu ti sei fatto un'idea o semplicemente è un dedalo di dati difficilmente estricabile? No, ci sono diversi scenari con molte variabili, per cui diciamo che forse da parte italiana si sono scelti gli scenari peggiori, da parte della Commissione europea gli scenari più ottimistici. Quello che è certo è che l'Italia, soprattutto con la proposta della sua formulazione iniziale, rischiava di essere il paese tra i grandi d'Europa che avrebbe pagato di più per vari motivi, perché il costo delle rinnovabili è alto, perché siamo rimasti piuttosto indietro, perché anche l'efficienza energetica è già piuttosto alta nel nostro paese, per cui migliorarla ulteriormente costa di più, e per la struttura del tessuto produttivo, oltre che per il fatto che non abbiamo il nucleare. Quindi tutti i fattori che implicano che lo sforzo italiano sia più costoso di quello di altri paesi. Bene, staremo a vedere poi giovedì e venerdì se arriverà un accordo anche tra i presidenti. Grazie per ora Enrico Brivio in collegamento con noi da Bruxelles. Da Sebastiano Barisoni è veramente tutto, un augurio di buona serata, ci risentiamo domani dalle 17 in poi.